Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? E bentornati Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi cade proprio alla vigilia del 25 aprile, festa nazionale per la liberazione dall'antifascismo del nostro paese, e quindi in qualche modo ci concentriamo sui fumetti legati alla resistenza. Anzi, partiamo proprio da questo libro edito Feltrinelli, Per la libertà, la resistenza nel fumetto. Gli autori sono Luciano Nicolai, della Fondazione Nicolai, che a Firenze raccoglie un'infinità di fumetti declinati nella resistenza, e Pierluigi Gaspa. Proprio con Pierluigi Gaspa abbiamo un po' un quadro di autori importanti che legarono la loro opera iconografica alle lotte per la liberazione. Dopo lo stacchetto musicale, la parola per l'appunto a Pierluigi Gaspa. Il partigiano è, rappresenta la prima, il primo vero grande personaggio della resistenza a fumetti, anzi, se devo dire la verità, probabilmente l'unico a essere, a far parte di una vera e propria collana di storie di resistenziali. Il personaggio nasce nel 1945 ad opera di Nino Camus, che in realtà è uno pseudonimo perché il suo vero nome è Giovanni Camusso, un disegnatore torinese, purtroppo scomparso precoce a causa della malattia vascolare, e che probabilmente avrebbe potuto dare parecchio al fumetto italiano se fosse, avesse potuto continuare la propria opera. Quindi, dicevo, nel 1945 il fumetto di resistenza è appena cominciato. Le primissime storie che vedono protagonisti patrioti, non ancora tanto partigiani quanto patrioti, sono apparse a Napoli nel 1944, quindi a guerra ancora in corso, ma con Napoli già liberata per le vicende note delle quattro giornate. Da allora si sono sviluppate alcune, pochissime storie di resistenza, fino ad arrivare appunto a questo Pamil Partigiano, che uscì in 5 numeri, che venivano pubblicati anche in maniera piuttosto saltuaria, come poteva essere fatto all'epoca. Già la penuria della carta, eravamo nell'immediato dopoguerra, quindi i problemi di carta e di organizzazione erano notevoli. La caratteristica di Pamil Partigiano è una estrema modernità intanto nel tratto e nel modo di raccontare. Se uno le prendesse in mano un albo, vedesse le tavole di Pamil Partigiano, comincerebbe a pensare che magari sono state pubblicate 20 anni dopo su un albo Bonelli, perché il tipo di impaginazione, il tipo di dinamismo delle immagini sono praticamente sovrapponibili a quello di un albo bonelliano molto più successivo. Ma soprattutto parla di resistenza, e ne parla in maniera estremamente interessante. Ci sono diverse cose che si possono segnalare in Pamil Partigiano. La prima è che ogni numero è introdotto da un bollettino che praticamente riprende quelli reali che venivano diramati in seguito alle azioni partigiane. Non soltanto. All'interno ci sono delle scene non indifferenti dal punto di vista anche dell'approccio all'argomento. In una si vedono, per esempio, dei partigiani che assaltano una postazione tedesca, e dentro ci sono anche delle donne semisvestite che evidentemente familiarizzavano con il nemico. Una cosa che già nel 1945 aveva, insomma, non era semplice da raccontare, e che dopo la guerra porterà una serie di conseguenze sulle quali non ci stiamo a soffermare, e che comunque non verrà più raccontata per tanto tempo dopo. Ma soprattutto nell'ultimo numero pubblicato c'è una storia particolare. Questa storia particolare è Il figlio fucilato, che non è di Giovanni Camusso, in realtà è di Paolo Campani, che molti ricorderanno per essere stato un grandissimo animatore di tanti spot pubblicitari del Carosello, nonché creatore e anche grafico di uno dei primi supereroi italiani a fumetti, che era Mister X, supereroe dalla tuta rossa e dalla giberna atomica che ne faceva di tutti i colori. Ebbene, in questa storia, che è di 4 pagine, quindi molto, molto piccola, molto breve, racconta la storia di 2 genitori anziani che si recano a Covo Partigiano sulle montagne, perorando la causa del proprio figlio, che però combatteva dall'altra parte. Era un repubblichino che era stato catturato dai partigiani e che loro, grazie anche al fatto che questo signore era anche lui antifascista e aveva una sorta di lascia passare da parte delle autorità del Comitato di Liberazione Nazionale, ebbene lui cercava di salvare la vita del figlio. Purtroppo arriva tardi, il figlio è stato fucilato perché aveva partecipato a rappresaglie, perché aveva fatto quello che succedeva dall'altra parte. E la cosa bella, se vogliamo, è che intanto si vede questa dicotomia già nell'ambito della famiglia, una famiglia lacerata fra un padre antifascista e un figlio che invece combatteva per la Repubblica Sociale. E poi si vede anche il fatto che un genitore davanti a questa cosa dirà alla fine, pur nel suo dolore tragico, dirà che i partigiani avevano compiuto il loro dovere, che quindi non ce l'aveva con loro, perché il loro si trovavano in quella situazione e probabilmente chiunque avrebbe fatto la stessa cosa. Trovo che questo sia estremamente importante, perché per quanto riguarda i fumetti ambientati nel mondo della Resistenza, il fatto che si sia svolta questa lotta fratricida per 2 anni, dal 43 al 45, fra italiani e italiani, non viene quasi mai citato, se ne riparlerà anni dopo. Potrei citare il 1973, quando Alfredo Castelli e Mario Ruggeri, sul Corriere dei Ragazzi, pubblicheranno Quest'uomo deve morire, che racconta le vicende dell'uccisione di Duccio Galimberti. Giusto per capire l'ambito in cui ci si muove, questa storia di 20 anni dopo suscitò un mare di polemiche da parte di lettori e dei genitori dei lettori che non vedevano di buon occhio che si raccontassero queste cose 20 anni dopo. Immaginate scriverlo 20 anni prima. Nel quarto numero, se non ricordo male, c'è un riferimento a un gappista di Torino, realmente esistito, che intrappolato, pur di non farsi catturare vivo e non tradire i propri compagni, si gettò da una finestra sfracellandosi al suolo, appunto per non essere costretto a, magari sotto tortura, a tradire i compagni e quindi a provocarne la cattura. Ma sostanzialmente, più che, a parte questo caso vero, specifico e particolare, quello che c'è è proprio il sentire di Nino Camusso, cioè di Giovanni Camusso, era un sentire antifascista, diciamo la verità, insomma, altrimenti, diciamo le cose, non avrebbe potuto fare un personaggio del genere, perché disegnare, scrivere un personaggio così, occorre interesse particolare per l'argomento, interesse che in realtà nel corso del tempo, soprattutto dalla fine degli anni 40, è scemato completamente dal punto di vista editoriale, quantomeno per quanto riguarda i fumetti. Potrei citare un altro esempio estremamente importante, che è quello di Chouchat. È un fumetto che prende il nome chiaramente dal film di De Sica, ma che vede protagonista un ragazzino che vive ai confini della linea gotica, praticamente passa avanti e indietro la linea gotica nel periodo in cui la guerra si è stabilizzata in quel settore, e che vive la situazione della guerra in maniera estremamente realistica. Faccio 2 esempi. Il primo è quello dell'episodio chiamato rappresaglia. Rappresaglia è la descrizione della strage di Marzabotto, pur senza nominare Marzabotto, ma siamo nel 48. Questo paesino dell'Appennino tosco-emiliano, che viene circondato improvvisamente dopo che 2 soldati tedeschi erano stati uccisi in un agguato dei partigiani, e i suoi abitanti vengono massacrati completamente, è esattamente quello che accade a Marzabotto. Un secondo esempio, il vagone piombato, si vedono dei prigionieri che sono chiusi dentro un vagone appunto piombato alla stazione di Bologna, e si vede in una scena brevissima, però significativa, si vedono le condizioni di vita di queste persone costrette a stare in un vagone, tutte pigiate d'estate, perché descrizioni assolutamente realistiche, tipo uno dei personaggi che deve andare perché ha un bisogno corporale. Il ragazzino convinto che possano scendere dal vagone nonostante tutto per espletare queste necessità, si vede detto che no, guarda che se noi dobbiamo fare qualcosa c'è un angolo del vagone che è preposto a questo. Ora, stiamo parlando di una serie a fumetti per ragazzi degli anni 40. Ancora oggi certe cose sono difficili da raccontare, figuriamoci in quegli anni. Alla fine degli anni 40, le poche storie resistenziali che erano uscite, non erano comunque tante, sono completamente cessate. È anche vero che ne ho parlato con uno storico, anzi con diversi storici, che mi hanno confermato un'idea che tutto sommato abbastanza ovvio, nel senso che erano cambiati gli scenari politici, la stessa Germania stava entrando nella NATO, quindi non era più possibile in realtà raccontare determinate cose, per cui è anche parte dell'establishment politico dell'epoca italiano, non voleva, non era interessato, diciamo le cose come stanno, non era interessato a rievocare questa serie di eventi. Il Chouchat di cui abbiamo parlato prima, questo Chouchat è un personaggio che ha avuto un grande successo per un certo periodo, e veramente le sue storie erano ambientate appunto a cavallo di questa linea gotica. Guarda caso, a un certo punto queste storie, improvvisamente Chouchat viene preso e ex abrupto scaraventato in Canada a fare la giubba rossa, completamente avulso dalla sua realtà iniziale. Non soltanto, proseguirà per un po', poi chiaramente ha perso qualunque mordente e quindi finirà. Però il personaggio viene ristampato una prima volta e tutto quanto fila liscio. Viene ristampato una seconda volta alla fine degli anni 40 e allora le cose cominciano a cambiare. Intanto è evidentissimo il fatto che l'episodio rappresaglia viene cancellato, non viene più ristampato. Come non esiste più, per esempio, tutta una serie di commenti ai danni dei fascisti, ai danni dei tedeschi, che vengono letteralmente biaccati, come si usava a fare allora, dalle nuvolette nelle quali rimangono gli spazi bianchi, tra l'altro. Ne esistono anche di esempi divertenti. C'è una vecchina che ha dato rifugio a Chouchat e a Fiammetta, che è la ragazzina che sta con lui. Ha dato rifugio, li ha nascosti dentro una cassapanca perché sono inseguiti dai tedeschi. Ebbene, nella vignetta originale si vede questa vecchina che implora la Madonna, dice: per favore fai che non li scopra, che questi qua non vengano scoperti, e soprattutto fai che tutti i tedeschi in Italia possano crepare. Parole testuali. Ora, chiaramente una vecchina che implora la Madonna di far morire delle persone già è indice comunque di qualcosa. Fatto sta che in questa ristampa la vecchina si rivede parlare con la Madonna e dire: per favore salvaci, ma viene completamente eliminata tutta la parte che riguarda i tedeschi. È soltanto l'esempio più eclatante, anche divertente se vogliamo, però di un fenomeno che si ripercuote per tutta la saga. Cioè tutta la saga vedrà delle nuvolette, delle situazioni edulcorate nei toni per cercare di stemperare quello che era una cosa che invece faceva parte integrante di quello che gli autori volevano descrivere, cioè la vita e le situazioni che si venivano a creare in Italia tra il 43 e il 45 in un settore di guerra, poi sostanzialmente, perché in quel momento lì la guerra era lì soprattutto. A emblema poi in realtà questo improvviso distacco dell'editoria Fumetti, ma non solo di quello, dalla resistenza, cioè esiste un'altra storia in cui si parla di un ragazzo che ha salvato un paesino da una rappresaglia, muore, e si vede in questa storia, all'inizio di questa storia, lo sceneggiatore che parla in prima persona, che passeggia per la montagna, in montagna, e trova la tomba di questo ragazzino. Alla tomba di questo ragazzino veglia soltanto un cane. E il commento dello sceneggiatore è, dopo che si è informato di tutte le vicende che sono accadute, avete visto, sono passati appena pochi anni, ma di questo ragazzino che ha salvato tutto si ricorda soltanto un cane. Tutti gli altri se ne sono mai dimenticati. Carta, cuori, unghie, memorie bruciati in fretta come nella camera di scoppio di un motore, sulla forca o con le fucilate, con una garrotta o con la sedia elettrica. I vivi non ricordano lo sguardo, i vivi non ricordano lo sguardo di Nicola Sacco, morto in vano. Bartolomeo Vanzetti, morto in vano. Giacomo Matteotti, morto in vano. Giuseppe Pinelli, morto in vano. E più neri di prima sono ritornati, lo stesso cognome Mussolini. Usano un televisore come un cavallo di Troia, entrano nel futuro dei nostri figli, così come c'entrarono nel 920, per ricordarci che un giorno a Brescia sono morti in vano, a Ustica sono morti in vano, a Bologna sono morti in vano, a Marzabotto sono morti in vano. Perché i vivi non ricordano, si è ammutolito il mio strumento quando ha capito che il popolo italiano di mare, di cielo, di mare, cielo e terra deve saperlo, che ci portano alla guerra. Guarda nei libri, devi ricordarlo, ogni quanto tempo in Europa c'è un conflitto, dove madri, padri, figli e figli sono morti da dimenticare. Perché i vivi non ricordano, perché i vivi non ricordano gli occhi dei fratelli Certi, morti in vano. Lauro Farioli, morto in vano. Marino Serri, morto in vano. Giovanni Albizzoni, morto in vano. Non è mai così lontana. Con noi l'autrice Leila Marzocchi, che saluto. Sono passati 100 anni, quindi abbiamo 5 dicembre 1944, il tremendo rastrellamento di Amola ai danni della Brigata Partigiana, il 63° Battaglione Bolero Garibaldi, e di come si svolse questa operazione. Ora è possibile leggerlo, è possibile portare attenzione con questo linguaggio personaggio particolare, che è quello del fumetto. Come hai costruito questa storia? Come l'hai ricostruita per darle una continuità, Leila? Allora, io mi sono basata su un'intervista che è stata registrata su DVD da degli storici nel 2004, e quando mia zia appunto venne chiamata come reduce, come deportata del lager di Bolzano, e le venne fatta questa intervista. Allora, io mi ricordo benissimo che quando mi diede il dischetto mi disse: io non ci volevo neanche andare perché non mi ricordavo niente. E poi mi disse, sorridendo, invece poi ho parlato per un'ora. E quindi lei appunto ricordò, le vennero fatte delle domande circostanziate, e ricordò appunto la notte del rastrellamento, quando appunto i nazisti e fascisti, la SS, insomma i fascisti locali, bussarono alla porta di notte. Suo padre non voleva aprire e lei disse: no papà, apriamo, perché sennò ci uccidono tutti qui, insomma. E vennero appunto rastrellati, vennero presi suo padre Aldo Toselli e suo fratello Dino Toselli, che aveva 17 anni all'epoca, e vennero portati via. E lei e una sua amica, che erano, le avevano lasciate lì, insomma, si incamminarono pensando di andare a chiedere a qualche autorità a San Giovanni Persiceto cosa succedeva, insomma, e vennero arrestate sulla strada, e quindi mia zia vennero portati tutti quanti prima a Sant'Agata in un cineteatro, che poi mia zia ricordò nell'intervista come una palestra, ma era un cinema teatro, e lì arrivarono sia i rastrellati di Amola sia i rastrellati di Anzola dell'Emilia, dove vennero catturati, insomma vennero cercati i gappisti della brigata Tarzan, e vennero tutti disposti al muro con la faccia al muro, insomma, con i cani dietro e la SS con le armi spianate, e mia zia pensava che li avrebbero fucilati. Invece poi alcuni vennero portati nel carcere di Bologna, altri da altre parti, altri finirono nei campi di concentramento, e 19 dei ragazzi rastrellati ad Amola furono fra i martiri dell'eccidio di Sabbiuno del 14 dicembre del 1944. Sì, infatti vengono ricordati questi ragazzi trucidati sulla delazione di un fascista, arrivarono le SS e lo svolgimento dei fatti. A 100 anni di distanza resta comunque una grande lucidità e una volontà di ricerca da parte tua, con un linguaggio contemporaneo che è quello del fumetto. Quanto hai lavorato? Quanto tempo necessita questo lavoro? Quanto hai impiegato? Guarda, in realtà è stata una cosa molto lunga, perché la mia storia con questo, allora, per pensarci ci ho messo degli anni, poi per realizzare, quando finalmente ho deciso di fare questo libro, è passato, diciamo, fra scrivere e disegnare 3 anni, che comunque sono tanti, insomma. Ma appunto la mia storia con questo libro inizia fin da bambina, nel senso che io da bambina conoscevo quello che era successo, insomma, col nazismo, conoscevo i campi di concentramento, le persone che erano state messe prima nel gas, poi nei forni crematori, sapevo degli ebrei, quindi per me, io sapevo che c'era questa cosa terribile che c'era stata, che per me era lontanissima nel tempo. E quando seppi che mia mamma, mia mamma mi disse per caso, perché io sentii un brandello di conversazione, che mia zia era stata in un lager, per me fu una cosa veramente scioccante. Un pugno tanto nello che... stomaco. Certo. Sì, non riuscivo proprio a unire questi due estremi, che era il mio presente con mia zia, insomma, in una situazione di benessere, di un po' in technicolor, insomma. Certo. Io questo lo sottolineo col fumetto, no? La mia realtà era colorata, insomma, io mia zia la vedevo in questo modo, e sapere che lei aveva avuto un passato che c'entrava con quella cosa così tremenda, che per me era già un incubo allora, nel senso che era veramente il vertice di crudeltà umana, ecco, per me è stato talmente appunto scioccante, che io a un certo punto nel tempo ho pensato che avevo capito male, cioè ho messo proprio in dubbio la mia percezione. Non è vero? Sì. No, infatti non. E praticamente io sono partita, diciamo, nel fare questo libro, che è poi costruito in tre parti, parla dei lager, parla di Wiesenthal, che è il cacciatore di nazisti, diciamo, un ebreo sopravvissuto che poi ha rovesciato la sua posizione, diciamo, di vittima, e poi parlo di mia zia, un po' per collegare, no, questi due estremi che per me erano sempre stati lontanissimi, e mia zia e il lager. Siamo arrivati allora alla fine della nostra trasmissione. Chi volesse sapere di più del materiale trattato, se volesse anche riascoltare l'intera trasmissione, i siti sono ilpioniere.org o www.radiostarfugico.it. Ciao a tutti, alla prossima.